Rest Therapy di Renato De Maria, Permanent Vacation di Jim Jarmusch, DNA, Vivo, Jimmy Chance, Lydia Lunch, London Calling, The Clash, Cortocircuito, la sperimentazione che in quegli anni si sviluppò con le droghe di ogni genere e con ogni tecnica artistica di alterazione percettiva.